Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Brevissima introduzione perché tanto come è anticipato domenica scorsa, questa è domenica di intervista, è da poco primavera se non sbaglio, esatto, anche se oggi c'è un tempaccio perlomeno dalle mie parti qua di Bologna, poi dopo chiederò anche dalle parti del mio ospite, che poi probabilmente qualcuno sicuramente saprà già, però c'è anche questo cambio di orario, che sono 4 anni che la menano con sta storia che non cambieremo mai più orario, terremo sempre lo stesso, ma purtroppo abbiamo cambiato anche questo orario. 333 180 94 94, se voleste dirci come l'avete presa per questo cambio di orario, che puntualmente arriva annualmente, ma soprattutto 333 180 94 94, se voleste mandarci un messaggio per mandare una domanda o sul telefono di WhatsApp, Telegram o messaggistica normale, oppure che per chi ci sta già seguendo su Instagram con Andrea Rock, che è qui con noi. Ciao Andre. Ciao Dani, come stai? Ciao a tutti. Bene, bene, dai. Te tutto bene? Io molto bene, sono sempre felice di fare 4 chiacchiere con te, ma poi ormai negli anni abbiamo cementato questa bella amicizia, quindi sono felice di vederti in questi contesti, ma ancora di più di ritrovarci sotto i palchi. Esatto, esatto, questa è, l'abbiamo capita solo io e te probabilmente, perché sono andato a vedere Andrea Rock e Rebel Poets con il loro progetto uscito con un nuovo album True Story a Treviso sabato scorso, quindi come ti dicevo mi ha fatto un sacco piacere ed eri con tutta la famiglia, però adesso acquisita, poi precisiamolo, e poi dopo ovviamente andremo a snocciolare anche tutto questo. Mi fa piacere come al solito anche a me averti, perché ormai averti qua in collegamento, perché come dicevi tu è da tanti anni che ci conosciamo, quindi è bello, mi fa un sacco piacere, e quindi direi che un po' questa introduzione un po' a casaccio per far capire che già la gente si sta collegando su Instagram, quindi non abbiate paura di mandarci qualche commento, qualche domanda su Instagram o come dicevo prima 333 180 94 94 per WhatsApp, messaggistica normale o Telegram. Prima di iniziare effettivamente a parlare del nuovo disco, abbiamo ho ormai messo come istituzione, non mi ricordo se te l'ho già fatta, ma direi di no, perché tra le chiacchiere che ci facciamo un po' quando ci vediamo e le interviste già fatte, non vorrei incappare in qualche domanda già fatta, però al massimo sarà una ripetizione gradevole. Quindi dicevo, domanda di rito iniziale, saprai sicuramente anche tu che il prossimo anno i NoFX si scioglieranno, quindi molto apertamente, ma con la tua dote di sintesi, dici cosa sono un po' per te NoFX. Ma allora, guarda, io credo che se negli anni 80 c'era la divisione Duran Duran Spandau Ballet, negli anni 90 per gli amanti del punk c'era la divisione Rancid NoFX. E in questo senso io mi sono sempre trovato più dalla parte di Tim Armstrong. Tra i due colossali album che arrivarono in quel periodo, quindi Punk in Drublic da un lato e Out Come the Wolves dall'altro, il 19 tracce dei Rancid per me è stato un album fondamentale, mi sono tatuato mezza schiena dedicata a quel disco, quindi questo è un po' il sentore. Questo ci farebbe pensare che per me non significhino nulla i NoFX, non è vero, sono una band fondamentale, fondamentale per il genere, fondamentale per tante cose che hanno portato negli anni ai festival e sui palchi, però devo dirti, sono felice del fatto che chiudano probabilmente la loro carriera in questo momento, dopo una fase di declino che secondo me c'è stata qualche anno fa, parliamo più o meno una decina di anni fa, e adesso avevano ricominciato a risalire la china con delle performance migliori, con una scrittura secondo me più interessante. È bello chiudere in questo momento, non mi piace assistere a quello che è il lento abbandono del talento da parte delle band. Ci sono tanti tour in questo periodo d'addio, ci sono dei tour invece di reunion, diciamo che per molti tour di reunion secondo me forse sarebbe stato meglio chiamarli tour di addio, quindi evviva i NoFX fino a qui, grazie per tutto quello che ci hanno dato, non portate avanti però il progetto in un secondo momento, cioè se è un tour di addio che lo sia sul serio e salutiamoci nella maniera migliore. Giustissimo, giusto, giusto. Perfetto, guarda, non avrei, penso che rispecchi abbiano male anche con quello che un po' la penso. Anche intanto ci scrive: ciao Andrea, abbiamo suonato insieme a Nove Drate. Come, non so bene, può essere, quindi intanto non mi ricordo quasi niente di quello che faccio, quindi però, sì. In linea di massima qualcuno si ricorderà anche per me e te alle volte. Stavamo ovviamente parlando un attimo del ricambio che si spera ci sarà nei prossimi anni, perché tanto come NoFX sicuramente anche Bad Religion, Offspring, Rancid, Green Day e compagnia bella tirano i remi in barca prima o poi, perché anche loro hanno una certa età. E stavamo parlando degli Interrupters, che probabilmente sono tra i quotati per prendere posto come headliner nei vari festival, giusto? Sì, sono d'accordissimo. Li abbiamo visti benissimo a Bayfest l'anno scorso, dove non hanno minimamente sfigurato. Certo, c'era magari qualche vecchietto oltranzista che diceva: no, ma questi non dovrebbero stare headliner. Invece sì, per fortuna è il ricambio generazionale, meno male che c'è. Esatto, esatto. Ma andremo avanti per ore, probabilmente io e te a parlare di questo, ma abbiamo una sorta di compito, quindi dare un po' lustro e promozione al nuovo disco True Story. Ho un sacco di domande che mi sono venute in mente, spero, come dicevo prima, di non ripetermi, però direi che dovremmo esserci abbastanza. Allora, prima di tutto, io non ho mai capito, cioè questi sette pezzi, no, in generale, come vengono chiamati? Perché secondo me è un EP un po' allungato. Qualcuno lo chiama già album, qualcuno lo chiama, come dicevo io, EP lungo, altri semplicemente EP. Come lo definisci tu? Ma guarda, io lo definisco album perché secondo me dietro il concetto di album ci deve essere un lavoro completo che ha un inizio e una fine. Un concept, se da un certo punto lo vogliamo così chiamare, però ecco, un lavoro che non può essere incastrato in altri sistemi. Andando oltre le 3-4 tracce di un classico EP, a me piace definirlo album, anche perché il lavoro che c'è stato dietro è stato abbastanza intenso. Io ho cominciato a ragionare su questo disco più o meno a giugno del 2022, ovvero un paio di mesi più tardi rispetto all'uscita dell'album precedente, che era The Rebel Poets, appunto, del quale abbiamo parlato anche io e te. Sapevo di voler raccontare delle storie vere, e da qui il titolo True Stories, sette storie di sette personaggi che hanno fatto parte o attraverso la loro vita hanno raccontato degli aspetti della cultura irlandese. Ecco, questo era un po' il senso di questo lavoro. Per questo mi piace chiamarlo album, perché insomma ci abbiamo messo tanto effort, come direbbero gli americani. Ok, allora quindi direi che mi hai già sostanzialmente, anzi parzialmente, risposto a una domanda che avrei fatto dopo. Quindi questa Dolores, che non è nei pezzi che mi hai mandato, immagino che sia riferita alle leader dei Cranberries, immagino, giusto? Esatto, quello è un brano esclusivamente di tributo, dove magari usciamo anche un po' dal suono del resto del disco, perché è una citazione proprio agli anni 90, ai Cranberries, dal flam sul rullante alla scelta di coinvolgere Cristina, cantante dei Lidsberries, bravissima nel reinterpretare un po' la vocalità di Dolores O'Riordan. Sembra Dolores O'Riordan, alcuni mi hanno detto: come hai fatto a registrare un featuring con lei? Assolutamente impossibile, anche se sarebbe stato un sogno. Era un brano di esclusivo tributo, motivo per il quale anche sarà quasi impossibile portarlo live, innanzitutto per i doppi impegni nostri e dei Lidsberries, che sono appunto questa tribute band dei Cranberries, che suonano tantissimo tra l'altro a Limerick, quindi in casa proprio della storica band irlandese, quindi sono stati accettati dalla loro famiglia, dalla loro cultura, dalla loro gente, dai loro fan in tutto il mondo, e questo sicuramente un plauso. E poi appunto per me è stata una figura fondamentale, io mi sono avvicinato alla questione irlandese proprio attraverso di loro, cioè quando a 12-13 anni scopro Zombie capisco che c'è qualcosa dietro oltre alla semplice canzone, che era un brano di denuncia che raccontava qualcosa che stava succedendo in Europa, del quale i nostri telegiornali ad esempio non parlavano quasi. E quindi mi sembrava importante renderle omaggio. Giusto, giusto, infatti mi sono andato a leggere anche il testo, poi con questo richiamo che anch'io te l'avevo chiesto, ho detto: come hai fatto a fare questo featuring? Però mi hai detto che effettivamente è la tribute band, quindi bel pezzo, come dicevamo prima. E quindi sette storie vere, come spesso dici da live, di una sorta di storia un po' tormentata, un po' malinconica. Quindi tutti questi soggetti li porti anche in questi sette brani, immagino. Sì, la storia dell'Irlanda è una storia, comunque, come dicevi giustamente, tormentata, sofferta, intensa. È un popolo che è stato vessato dagli inglesi per oltre 800 anni. Ci sono stati gli anni bui, anni 90 dei Troubles, che ricordiamo però iniziavano, sono i Troubles che abbiamo vissuto magari io e te, la nostra generazione, ma i Troubles iniziavano fondamentalmente nel 69-70 con il Bloody Sunday nel 72 come momento, diciamo, purtroppo clou di quella che è stata la questione. E quindi sì, certo, è una terra dove viene spesso contrapposto il craic, come dicono gli irlandesi, quindi la festa, la voglia di stare insieme, di bere qualche birra e fare una session in un pub, a quelle che poi in realtà sono la buona parte delle tematiche delle cosiddette rebel songs, che, visto che tu stai a Bologna, è importante questo parallelismo. Le rebel songs irlandesi equivalgono un po' alle canzoni partigiane per noi italiani. Sono canzoni che raccontano di esperienze di vita vissuta durante un periodo di conflitto, e quindi io ho cercato negli anni, sia col disco precedente che anche con questo, di andare un po' ad ammodernarle dal punto di vista ovviamente del suono. Ok, molto bene, molto bene. Quindi adesso, dato che abbiamo anche un attimo iniziato a spolverare il disco True Story, ci andiamo ad ascoltare un pezzo, Belfast Boy. Prima di lanciarlo, hai qualcosa da dire brevemente? È un brano al quale sono terribilmente legato, brano scritto musicalmente dai ragazzi della band, Luca Taglietti, Lorena Vezzaro, Andrea Merlini e Ivan Marconi, brano dedicato a Michael Phillips, ragazzo che nel 1996 viene arrestato con l'accusa di terrorismo, passa 15 mesi nelle prigioni inglesi. Michael era presente tra l'altro alla data di Treviso dello scorso sabato, quando ci siamo visti anche io e te, e devo dire che suonare una canzone davanti a lui, alla quale l'hai dedicata, è una grandissima emozione. Quindi è uno dei casi nei quali per fortuna ho potuto confrontarmi direttamente con chi ha vissuto quell'esperienza nella stesura del testo. Ci perdiamo in chiacchierissime quando siamo fuori onda della radio, quindi se rientro con leggermente di ritardo, abbiate quel minimo di pazienza, ma rientriamo, non vi preoccupate, tanto c'è bene o male, c'è la base che nel caso parte. E, parlando sempre di San Patrizio e quant'altro, dato che è passato praticamente un anno dall'uscita del Rebel Poet, ti chiedo già anche se state già lavorando o pensi di tirare fuori qualcosa per il prossimo San Patrizio, perché non avendo saltato nessuno in questi due anni, quindi dici magari ci può fare un 3 su 3. Ma se, allora, se guarda, puoi, puoi. Se... Allora io posso dire tutto, non c'è nessuno che aspetta chissà quali rivelazioni. Devo dire che se adesso dicessi ai miei compagni di gruppo che sto pensando a un nuovo disco, questi mi tagliano la gola, perché mi dicono: ma come, avevamo fatto il disco, quello del 2022, al quale siamo stati super dietro tanto tempo, arrangiato eccetera, l'abbiamo fatto lungo, l'abbiamo stampato in vinile eccetera per riuscire ad avere un po' di tempo, quest'anno subito ci hai messo sotto a farne un altro. Però ti confesso una cosa, Dani, io stamattina quando mi sono svegliato, ieri abbiamo suonato, è stata una bellissima situazione in montagna, sono tornato e ho detto: avrei già il soggetto per il prossimo. Però no, guarda, lo dichiaro, il prossimo lavoro che uscirà, se uscirà sotto San Patrizio in quel periodo, sarà esclusivamente un EP, quindi un paio di brani, massimo tre, perché mi piace che ci sia questa cadenza, ma mi piacerebbe anche poter curare tutte le produzioni. Devo dire che su questo disco abbiamo dovuto correre tanto per le consegne, e quindi vorrei, se sarà che si decide di pubblicare qualcosa anche nel 2024, in quel periodo, veramente un paio di brani, massimo tre, per continuare un po' un discorso, per dare un senso, ma se così non fosse, non offendetevi, cominciamo ad avere una scaletta tanto lunga, quindi non vi preoccupate. Infatti, molto, molto interessante. Sì, Simo, è uscito il vinile, quindi mi sono scordato di chiedertelo, te lo appena ci becchiamo, o che lo vado a vedere o verrai con me a vederlo, te lo comprerai, perché è anche un sacco figo, perché è tutto bello gigante. Quindi, vieni che ne vale la pena, vieni a trovarci. Alla grande, come io infatti mi sono fatto quest'oretta e mezza, come... oltre per l'amicizia, anche perché mi piace vedere il live, perché siete, ripeto, non so quante volte l'ho già detto, siete spettacolari, non ho visto nessun errore che possa essere di musicabilità, ecco, adesso non mi viene il termine esatto, però direi che hai capito. Bene, quindi io mi aspetto almeno 3 pezzi. Adesso non so se c'è qualcuno della band che si è collegato, però si ascolterà magari. Diglielo magari in sordina, detto regà un paio di pezzi proprio per mantenere, come dicevi tu, la costanza. Avevi introdotto il discorso della data di ieri e ho visto qualche video, ho detto come avete fatto a suonare in mezzo alla neve, perché era un freddo bestia, immagino, perché era la data di Bormio che mi avevi detto. Come è andata? Va bene, devo dirti che la parte più complicata era portare sugli strumenti. Ci siamo fatti dare una mano con gli amici con le motoslitte, perché suonavamo proprio in un rifugio, uno di quelli dove si va fondamentalmente a mangiare, a bere il bombardino dopo una discesa, e quindi siamo arrivati su, noi con la seggiovia, con la chitarra acustica in braccio sulla seggiovia, e mentre buona parte della strumentazione è arrivata su con le slitte. È stata una situazione molto particolare, non è che ci fossero le foglie oceaniche, noi arrivavamo da un weekend, quello di St. Patrick, dove c'erano 5.000 persone a Milano, 2.000 persone a Treviso, eccetera, lì penso che saremmo stati al massimo una 80 di persone, però c'è stata una bella festa, tutti molto presi bene, non era assolutamente un pubblico preparato al genere, né forse preparato all'idea di arrivare a un rifugio e trovarsi un concerto. Ci siamo divertiti tutti molto. Rispondere al discorso freddo, beh, siamo abbastanza sgamati dal punto di vista della temperatura, perché quando cominci a suonare sempre a San Patrizio e spesso ti mettono fuori, non è detto che il 17 di marzo faccia caldo, quindi noi abbiamo tutti le maglie termiche, eccetera, pronti a qualsiasi evenienza. Questa volta eravamo scafati. Ok. Ho visto brevemente che prima di lanciare la pubblicità, anzi un pezzettino che dura poco, poi lancio la pubblicità, che alla chitarra c'era una ragazza, mi pare, dai video. Sì, Giulia, bravissima, ha preso il posto di Luca, che era un po' incasinato per questioni lavorative. Altra splendida musicista, felice di avere anche lei nella cricca dei possibili poeti ribelli. Bene, quindi magari come possibile aggiunta come seconda chitarra elettrica, chissà, sì, vedremo. Seconda parte di Lestormon Rock, c'eravamo come solito un attimo dilungati in un discorso che probabilmente chiudiamo brevemente adesso, sul discorso dell'estero, quindi che non è facile, e parlavi stavamo parlando delle possibili uscite all'estero, ma che non è facile, ma avevi introdotto un discorso dei Ramjacks, mi pare, no? Sì, i Ramjacks in questo senso sono stati bravissimi. Loro hanno negli ultimi 5, 6, 7 anni della loro vita dedicato tutto alla band, quindi lasciato lavori, eccetera, eccetera, e davano disponibilità per fare 200 concerti all'anno. E con 200 concerti all'anno in tutto il mondo è chiaro che riesci a fare tour support ai Dropkick, aprire determinate date, eccetera, perché anche se fai questo investimento, però c'hai tutta una struttura dietro, insomma, hanno un ottimo management, delle ottime label dietro, e poi si sono dati, ecco, questo è un bel esempio per coloro che ci stanno ascoltando. Se volete arrivare a fare questa vita del rock and roll, del punk, eccetera, voi dovete mettere in conto che per un lunghissimo periodo sarà un sacrificio gigante, ok? Quindi dovete veramente immaginare che per 1-2 anni della vostra vita voi seminerete basta, quindi dovete essere abbastanza sgamati da, nel momento in cui non state suonando in giro, tornare a casa, tornare in Italia, lavorare per potervi permettere poi di ritornare in giro. Noi purtroppo siamo un po' fuori tempo massimo per quanto riguarda l'età e un po' per quelle che sono le situazioni proprio lavorative di ognuno di noi. Non riusciamo a permetterci di prenderci queste grandi pause per poter fare dei tour. A volte diventa complicato anche semplicemente andare centro-sud Italia, non parliamo le isole. Vuol dire tutte le volte data secca, tutte le volte ovviamente non vai a chiedere praticamente un cachet, soprattutto quando vai alle nelle isole, ma vai a rimborso spese, cioè ti prendi il volo il sabato mattina, torni la domenica sera, copriamo queste spese, speriamo di fare del merch se andiamo là, e se non è ci siamo fatti una bella serata. Però questo è più o meno il termine con il quale riusciamo a fare qualche chilometro in più. Stessa cosa sarebbe all'estero. Esatto, chiamiamola la gavetta, no? Come si dice. Sì, purtroppo è un discorso che sicuramente negli anni 80 chi, come parlavamo all'inizio puntata, in NoFX hanno fatto, intrufolandosi anche in certe date che dove non erano minimamente stati chiamati, quindi dai, piano piano sono arrivati a essere i NoFX che sono. Ma tornando al discorso di Rebel Poet e Undead, vedendo un attimo che ti stai concentrando di più sui The Rebel Poet, lasciando un attimo a parte il singolo che è uscito qualche mese fa degli Undead, quindi c'è più stimolo da parte dei Rebel Poet, oppure un momento che dici sono preso bene per fare questo? Ma guarda, in realtà sono due macchine che parcheggiano nello stesso posto, e ogni tanto ne tiro fuori una e ogni tanto ne tiro fuori un'altra. Adesso fondamentalmente con i ragazzi dei Rebel, passato il momento St. Patrick, andiamo li parcheggio un attimo, ci parcheggiamo tutti insieme fino a, mi pare, giugno, quando avremo la prossima data, mentre aprile e maggio saranno momenti dedicati agli Undead, dove torneremo a fare un po' di uscite, alcune anche con Marky Ramone. Le date sono in via di definizione, c'è fuori già quella del, se non vado errato, 22 aprile al Capitol di Pordenone, 23 aprile al Light Club di Trezzo sull'Adda, alle porte di Milano, e quindi rimettiamo in marcia la macchina Undead. Abbiamo voglia di tornare ovviamente sui palchi anche con loro, e poi quando ribalteremo di nuovo il parcheggio di una delle due band, ovviamente la prima delle due si troverà a scrivere, e abbiamo già delle idee anche per quanto riguarda il prossimo concept Undead. Lì posso quasi garantirti che andremo su un disco. Ah, ok, va bene, quindi quando sarà ci sentiremo anche per quel discorso lì. Quindi tornando a parlare sempre di True View, mi hai mandato a Servant of the Queen, quindi anche questa di cosa parla questo brano? Questo è un brano molto complicato, il soggetto è Maud Gonne, una donna che fu fondamentale per la lotta dell'indipendenza irlandese, ma contemporaneamente anche un personaggio scomodo, perché aveva delle frequentazioni anche da me medesimo non particolarmente encomiabili, da Ezra Pound, eccetera. Lei, se si va a cercare su internet, viene tacciata anche di antisemitismo, che secondo me è una delle cose peggiori al mondo. Contemporaneamente, però, parlando con gli irlandesi, mi hanno detto certo era innegabile il lavoro che ha fatto per l'indipendenza irlandese. Quindi c'è un disclaimer alla fine del brano nel quale io dico: è vero, sicuramente un'eroina anche lei, ma sto più dalla parte di James Connolly dal punto di vista politico, dal punto di vista ideologico, che fu uno dei grandi protagonisti dell'Easter Rising nel 1916. Ovviamente discorso molto delicato, come c'ha scritto anche Simone, quindi vedremo se ne avete voglia di parlare. Ci sarà possibilità magari di chiedergli nello specifico dei vari pezzi. Brevemente, come ti avevo già anticipato prima, se hai già qualche data dei Rebel che è stata fissata, che vuoi dire, che così nei prossimi mesi la verrà fatta, che così per pubblicità, giustamente. Chi vuole venirci a trovare il 17 di giugno saremo dalle parti di Lecco, anche questa verrà annunciata a breve. 1-2 luglio, un bellissimo weekend per gli appassionati di genere. Non posso ancora dare l'annuncio perché è un festival molto importante, ma credo che chi ha attenzione da questo punto di vista arriverà facilmente a capire di cosa si tratta. E poi, siccome poi impegni personali mi terranno, questi ce li siamo raccontati in privato io e Dani, impegni personali mi terranno occupato almeno i primi mesi di agosto, settembre, ottobre, credo che poi i Rebel rimonteranno in sella o a settembre se riusciamo a partecipare a un festival al quale siamo molto legati, o direi fine ottobre inizio novembre con il Capodanno celtico, qualcosa salterà fuori. Però direi che l'unica data della quale al momento ti posso dire 17 giugno saremo a Lecco, una bella situazione, poi semplicemente seguendoci avrete tutte le informazioni. Bene, bene, bene, almeno questa è quello che è. Allora, io ho quasi finito, direi che sono riuscito a tirare fuori tutto quello che avevo in mente, comunque che avevo tirato fuori. Parlando un attimo della copertina, ho visto che c'è una sorta, adesso passami il tempo e poi spiegherai meglio un attimo tu, di messaggi nascosti, che sono un sacco di frasi un po' sfocate in mezzo nella copertina, per dire una che recita dice... with reference to your number one, credo, poi magari dimmi tu se è corretta, dated 2nd May on the subject of execution of rebel prisoners. Questa che è un po' che si intravede, diciamo, non è chiarissima. Allora, sì, diciamo che la copertina curata da Alberto Bocca voleva dare esclusivamente il senso proprio del disco, quindi siamo noi in silhouette come se fossimo quasi dei sospettati per dei crimini, perché poi in realtà che si tratti di una fazione o dell'altra, molte delle storie dei Travels sono storie di gente sotto copertura, ok? Gente che si è dovuta nascondere per motivi di sicurezza e per andare a poi svolgere le proprie mansioni. Anche qui cerchiamo di essere i più politically correct possibili. Le frasi sono frasi legate ad alcuni personaggi, ad alcuni dei protagonisti delle canzoni. Quella che vai a citare è legata a Patrick Pearce, un insegnante, uno dei più grandi sostenitori della lingua gaelica, nonché uno dei rivoluzionari, dei ribelli della East Uprising, la rivoluzione di Pasqua del 1916, colui che dichiarò per la prima volta lo Stato libero d'Irlanda, un momento importantissimo che avvenne al General Post Office di Dublino proprio durante la primavera del 16. Ah, ok, bene, quindi ho avuto l'occhio chirurgico, clinico, per dire, tirare fuori anche un attimo queste cose, perché non so, cioè, d'impatto si vede la copertina, poi andando adesso col telefono l'avevo vista, ho detto c'è qualcos'altro qua sotto, e andando a zoomare saltano fuori anche queste piccole chicche, come ci sono anche delle due immagini ai lati in basso, sia destro che sinistra della copertina, con che lì si vede pochino, però c'è qualcosa anche lì sotto, sempre immagino riferito ai pezzi del brano, del disco. Esatto. A me piace dire questo quando parlo del progetto. È un progetto che può essere recepito a tanti livelli differenti. Sei in festa, vuoi ballare su alcuni music che andiamo a presentare con il violino, c'è il ritmo veloce di batteria e quindi ti viene addirittura da fare il pogo alla Flogging Molly, Dropkick Murphys, va bene. Se vuoi addentrarti un po' di più in quello che noi raccontiamo, ci sono i testi, ci sono le storie vere come in questo caso, ci sono tutte queste piccole reference che chi è attento come te va a recuperare, però niente è lasciato al caso, ecco. In questo progetto, come in realtà anche negli Undead, nulla viene lasciato al caso, cioè quello che viene portato su disco è perché è stato studiato e pensato in maniera molto molto molto sincera da un lato e attenzionata dall'altro. Come dicevo, siamo praticamente in dirittura d'arrivo, dato che siamo ancora all'ultimo pezzo di Andrea Rock and the Rebel Poet, che come dicevo ci ha tenuto compagnia per tutta la puntata. Ci andiamo ad ascoltare The Price to Pay, quindi ti invito già a dire qualcosina riguardante il brano, che così dopo lo vado a chiudere la puntata e introdurre il pezzo. Vai. Allora, The Price to Pay è un altro brano difficilissimo dal punto di vista del contenuto. Price è scritto con la maiuscola perché è il cognome di queste due sorelle, Dolores e Marion Price, che furono delle attiviste dell'IRA. Quindi storie molto complesse le loro, finirono ovviamente in carcere. Dolores Price portò avanti anche un lungo sciopero della fame come gli Hunger Strikers, il più celebre Bobby Sands, no? Magari è un nome che qualcuno può aver sentito. Sono più o meno gli stessi anni, loro due credevano entrambe in una possibilità di confronto con gli inglesi che non prevedesse la lotta armata. Poi però si sono trovati in situazioni dove le forze inglesi hanno veramente mancato di rispetto e violato i diritti dei cattolici irlandesi, dei quali loro facevano parte, loro portavano avanti le marce, un po' come nel Bloody Sunday. Loro si sono trovati in quella situazione molto complicata e quindi poi l'adesione all'IRA, diventano volontari, eccetera, eccetera, e si macchiano anche di crimini molto, molto, molto importanti. C'è un libro che segnalo che si chiama Niente da dire, che racconta proprio la loro storia e partendo dalla prospettiva di Jim Conville, che era una donna inglese che a un certo punto scompare, lascia i suoi 7 figli a casa, viene prelevata realmente e non si saprà più niente di lei per circa 20 anni, quando poi non verrà scoperto e dissotterrato il suo cadavere. Ecco, questa è una storia veramente complicata, terribilmente dura, eccetera. All'interno del brano c'è la dichiarazione che fece Dolores Price in una intervista prima che lei venisse a mancare. La sorella è ancora viva, mentre Dolores è venuta a mancare qualche anno fa, una dichiarazione sul perché della sua lotta indipendentista e sul perché del repubblicanesimo irlandese. Anche qui è stato complicatissimo tenere il balance corretto tra ciò che è successo e ciò che, in modo tale che non si andasse mai a enfatizzare e a spettacolarizzare il crimine, assolutamente no, ma si raccontasse la verità per come è stata. Benissimo, io come ti dicevo prima sono addirittura d'arrivo, quindi adesso dopo i canonici saluti di rito di fine puntata stiamo ad ascoltare The Price to Pay, dove ha introdotto la spiegazione il brano Andrea. Io come di consueto ti ringrazio per la disponibilità, grazie per essere stato qui con noi per questa oretta, e quindi io ti saluto, spero che riusciamo a beccarci il prima possibile. Vai pure. Sarà sicuramente così, Dani. Grazie davvero. È sempre un piacere scambiare 4 chiacchiere con te. Grazie mille agli ascoltatori di The Stockmore Rock e agli amici di Radio Fuggico. Grazie. Benissimo, il nostro compito l'abbiamo fatto. Poi, se vi siete persi qualcosa, ci sarà il podcast che verrà caricato tra qualche giorno. E ciao!